da quando tu non sei con me. Non dormo più, non sogno più, il giorno va, la notte viene, mi si trova sempre cercando te. Cerco una stella fra mille, cerco una goccia in un mare, ma ti perderò. Da quando tu non sei con me, non dormo più, non sogno più, il giorno va, la notte viene, mi si trova sempre cercando te. Andata via.